Avventurieri, avete scoperto una lastra di pietra. È antica, consumata dal tempo, ma ancora leggibile. Sopra è incisa una scritta enigmatica. Ascoltate bene. Parte 1 è uguale a V. Parte 2 è uguale a anno. Parte 3 è uguale a no. Parte 4 è uguale a Dan. Parte 5 è uguale a te. Parola è uguale a parte 1 sommata a parte 2 meno parte 3, sommata a parte 4, sommata a parte 5. Ritorna parola. Quale parola viene suggerita dalla formula?